Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Se 1,6 miliardi vi sembrano pochi, state certi che per gli appetiti delle cosche della piana di Gioia Tauro pochi non sono. Un enorme volano per lo sviluppo dell'area portuale, ma anche una torta irresistibile per le famiglie. Nei giorni in cui continua la polemica sul futuro dello scalo di transshipment di Gioia Tauro, è giusto fare due conti in tasca alle risorse che arriveranno o stanno già affluendo all'area portuale. Innanzitutto quelle previste per il rigassificatore di cui si parla da anni e che da 3 è in attesa di essere sbloccato nonostante il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fosse stato a un passo dal via libera. L'investimento previsto era di circa 900 milioni, ma ormai si viaggia verso il miliardo. Nonostante i protocolli di legalità e il continuo presidio di forze dell'ordine, le cosche già da tempo stanno studiando come avvicinarsi a quel miliardo, che considerano una riserva di ossigeno incredibile per i portafogli, sempre più colpiti da sequestri e confische, oltre che per riaffermare il controllo del territorio. Da loro potrebbero infatti ancora una volta dipendere non solo le assunzioni, ma anche la filiera dei subappalti e dei servizi. Oltre al miliardo per il rigassificatore, ci sono 200 milioni dell'accordo di programma quadro e circa 263 milioni che RFI dovrebbe o vorrebbe mettere sul tavolo per riconvertire o costruire infrastrutture ferroviarie ancora carenti. 90 milioni sono quelli che la regione ha messo sul piatto per lo sviluppo del porto e almeno 23 quelli che dovrebbero andare per il polo tecnologico. Diversi altri rivoli prevedono svariati milioni per interventi che portano il montepremi appunto ben oltre il miliardo e 600 milioni. Grazie in regia a Fabio Cantadori e in studio a Luca Cremonese. Buona giornata e a domani.